giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ancora fiamme sul Monte Raut sopra Frisanco e in Valresia, che resta parzialmente isolata, ma i temporali dovrebbero contribuire a spegnere gli ultimi focolai. In Carso il peggio sembra essere passato. Disagi per il forte vento in alcune zone del Pordenonese, a Roveredo in Piano e San Quirino, decine di richieste di intervento per alberi abbattuti e tetti scoperchiati. L'allarme siccità a San Vito al Tagliamento è l'emergenza idrica, pozzi in secca e abitazioni all'asciutto, in arrivo dalla Protezione Civile Nazionale oltre 4 milioni di euro per far fronte in tutta la regione alla carenza d'acqua potabile. Incidente mortale sull'altopiano del Montasio. Un 72enne di Tolmezzo, Walter Tedesco, è caduto in bicicletta lungo un tratto impervio di un sentiero, precipitando per una trentina di metri. Varzila, domani vertice al Ministero dello Sviluppo Economico. Continua il presidio dei lavoratori ai cancelli. Dalla politica e dal sindacato l'ipotesi della nazionalizzazione e la richiesta di pressioni sul governo finlandese. Parte in Consiglio regionale l'approvazione dell'assestamento di bilancio, vale quasi 800 milioni, il PD annuncia battaglia su ambiente ed enti locali. Cantieri a rilento a Trieste, slitta a fine ottobre la riapertura della galleria di Montebello e ci sono ancora da risolvere i nodi Acquamarina, Palazzo Carciotti e Porto Vecchio. A Udine i residenti ATER di San Domenico traslocano per permettere la ristrutturazione del quartiere, 65 le famiglie da trasferire. La Medea di Pasolini inaugura l'Aquileia Film Festival. La regista premio David Laura Samani apre il Festival dei cortometraggi di Pordenone. Musica Noemi in concerto a Lignano. 2-1 dell'Udinese contro i ciprioti del Paphos nell'ultima amichevole in Austria. Dopo il test delle riserve, i titolari impongono gioco e risultato. Venerdì sera al Friuli arriva il Chelsea. Le 7:20 di martedì 26 luglio, buongiorno a Lorenzo Gherlinzoni e Andrea Covre in studio per questa prima edizione del giornale radio regionale. Diamo subito un'occhiata al tempo, il cielo è da sereno a variabile sulla regione. Queste le temperature registrate alle 6, a Trieste 25 gradi e mezzo, mare quasi calmo con temperatura di 27 gradi e mezzo. A Udine 24 gradi e mezzo, Pordenone 23, Gorizia 21 e mezzo. A Tolmezzo 20 gradi e 5 decimi, Forni di Sopra e Tarvisio 16, Sappada 14 gradi e mezzo, Piancavallo 13, sul Monte Zoncolan 15 gradi, Monte Lussari 13, tornando sulla costa Lignano 27 gradi, a Grado 25 gradi e 5 decimi, temperatura del mare di 27 gradi e mezzo. Queste le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per la giornata odierna. Tempo instabile, nuvolosità variabile con rovesci e temporali sparsi e intermittenti, localmente anche forti. Le piogge potranno essere localmente abbondanti, specie sui monti, più frequenti di prima mattina e poi di nuovo dal pomeriggio. Nelle ore centrali della giornata sarà possibile maggiore presenza di sole, caldo in attenuazione, soffierà in prevalenza bora moderata. Ed è in corso l'allerta gialla diffusa dalla Protezione Civile regionale per possibili temporali forti su tutto il Friuli Venezia Giulia. L'allerta andrà avanti fino alle 21 di oggi e in effetti forti venti si sono abbattuti durante la notte su alcune zone del Pordenonese. In particolare a Roveredo in Piano e San Quirino i vigili del fuoco stanno rispondendo a decine di richieste di intervento per la rimozione di alberi abbattuti e tetti di abitazioni scoperchiati. Impegnati sul posto anche i volontari della Protezione Civile. Poca invece la pioggia caduta, almeno finora, sia nella destra Tagliamento, sia in provincia di Udine e soprattutto sulle aree colpite dagli incendi. Il fronte di maltempo più intenso è previsto per il pomeriggio sera. Vediamo ora la situazione degli incendi. Proseguono le operazioni di controllo e bonifica dei due incendi boschivi che da più giorni stanno impegnando i vigili del fuoco. Per quanto riguarda il Rogo, nell'area carsica tra Gorizia e Trieste, dopo i lanci d'acqua degli elicotteri di ieri, le squadre di terra, vigili del fuoco, corpo forestale regionale e volontari della protezione civile continuano nella bonifica delle aree bruciate e nel controllo di abitazioni e infrastrutture. Per tutta la notte sono stati sul posto per monitorare il territorio una sessantina di vigili del fuoco del comando di Gorizia, costretti in questi ultimi giorni a doppi turni di lavoro. La strada del Vallone è tuttora chiusa al traffico, salvo che per i residenti. Anche l'incendio della Valresia è sotto controllo, nella notte è piovuto per un paio d'ore e questo sicuramente aiuta la situazione. I mezzi aerei ieri hanno continuato a eseguire lanci mirati d'acqua e le squadre di terra sono state impegnate nella bonifica delle aree accessibili e nel presidio delle abitazioni. Un altro incendio è in atto dalla tarda serata di ieri sul Monte Raut nel comune di Frisanco, vista la zona montuosa e impervia dove è attivo questo rogo boschivo. Operano mezzi aerei che si rialzeranno in volo stamattina. La squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Maniago è impegnata per rifornire le vasche antincendio da dove gli elicotteri riempiono la benna d'acqua per poi scaricarla sulle fiamme. Ieri sono stati impegnati anche due Canadair del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Resta in primo piano anche l'altra emergenza, quella legata alla siccità, alla situazione di maggior sofferenza in provincia di Pordenone. In arrivo cisterne anche gli alpini per fronteggiare la grave emergenza idrica a San Vito, al Tagliamento. Già una trentina le abitazioni in grave difficoltà. Cisterne comunali a disposizione della cittadinanza e sacchi d'acqua consegnati a domicilio. Sono gli interventi decisi dal comune di San Vito al Tagliamento nell'incontro con la protezione civile e il gestore LTA per fronteggiare l'emergenza idrica. 26 le abitazioni attualmente in difficoltà, un paio rimaste del tutto senza acqua e la situazione si fa ogni giorno più critica. Sono zone dove sono un mese, due che sono senza acqua, a distanza di 500 metri da qua. Noi invece sono due settimane, tre. Aveva mai visto una situazione così? No, mai, mai. E questa, sì, profonda 187 metri, però niente acqua. Se non piove in montagna e non abbiamo il reintegro di acqua dalla montagna, le falde comunque col consumo di acqua che si ha si abbassano inevitabilmente. E bisogna che piova, è da tanto tempo che non piova e quello è il problema. La gente qui ha avuto piacere vedere sgorgare l'acqua, adesso si lamenta perché non ce n'è. Lo Stato ha messo su dei tubi da 300 per mandare l'acqua al mare perché hanno bisogno il turismo. Le industrie mungono acqua per raffreddamento. L'acqua è un bene che bisogna gestirlo bene. Il territorio è servito quasi totalmente da pozzi artesiani. Per il sindaco Bernava è tempo di ripensare questo modello. C'è già un progetto già finanziato, per esempio nella nostra zona industriale, della realizzazione di un acquedotto che permetta l'approvvigionamento idrico per gli utilizzi di carattere industriale, e questo sicuramente solleverà la parte civile e quindi garantirà insomma un po' più di equilibrio per quanto riguarda l'emungimento dei pozzi artesiani. San Vito al Tagliamento, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E intanto ci sono oltre 4 milioni di euro in arrivo dalla Protezione Civile Nazionale proprio per combattere l'emergenza siccità in Friuli Venezia Giulia. Al governatore Fedriga il ruolo di commissario per agevolare gli interventi. Per garantire l'approvvigionamento idrico alla popolazione, il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha stanziato 4 milioni e 200 mila euro alla Regione Friuli Venezia Giulia, nominando commissario straordinario per l'emergenza il presidente della Regione Fedriga. I gestori Acegas, AMGA, CAFC, Idrogea, Irisacqua, LTA, incontrando il vicepresidente Riccardi, si sono impegnati a trasmettere alla Regione l'elenco delle opere di maggiore urgenza per fronteggiare la crisi idrica. In 7 giorni verrà stilato il piano degli interventi compatibili con il budget di 4 milioni e 200 mila euro. Tra gli interventi previsti per garantire l'approvvigionamento idrico, la realizzazione di punti di distribuzione dell'acqua con autobotti, anche potenziando il parco mezzi, quindi la realizzazione di serbatoi e accumuli di carattere temporaneo, la ricarica delle falde acquifere, impianti di pompaggio supplementari anche per uso irrigue per la zootecnia e la rigenerazione e realizzazione di nuovi pozzi. Gli interventi saranno affidati ai gestori che diventeranno così soggetti attuatori e grazie alle deroghe contenute nell'ordinanza di nomina del commissario straordinario potranno contare su tempi celeri per ottenere le necessarie autorizzazioni sulla traccia di quanto avvenne già con la tempesta Vaia. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca: incidente mortale ieri in montagna, un 72enne di Tolmezzo, Walter Tedesco, è precipitato per 30 metri dal sentiero che va dai piani del Montasio verso piani di là ad una quota di circa 1200 metri. L'uomo stava percorrendo il sentiero con una mountain bike elettrica assieme ad altri compagni di gita quando ha perso il controllo del mezzo, precipitando. La chiamata è arrivata al 112 e la centrale operativa ha allertato la stazione di Cave del Predil, del soccorso alpino e speleologico, assieme a quelli della Guardia di Finanza e l'elisoccorso regionale, ma una volta sul posto il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del ciclista. Cronaca giudiziaria, è stata archiviata l'inchiesta a carico di Giovanni Belmonte, l'allora capo della divisione di polizia amministrativa sociale e dell'immigrazione della questura di Udine, finito agli arresti domiciliari lo scorso febbraio per un clamoroso scambio di persona e liberato soltanto dopo che nell'interrogatorio di garanzia insieme al suo difensore sollecitò verifiche incrociate cui nessuno aveva ritenuto di dare corso. A riportare la notizia dell'archiviazione è il messaggio Veneto. L'uomo era stato inizialmente accusato di prostituzione minorile, ma semplicemente non si trattava di lui. Il legale di Belmonte ha detto che sarà valutata la possibilità di un risarcimento. Il decreto di archiviazione per insussistenza del fatto è stato firmato dal GIP su richiesta della Procura di Bologna. Il mondo del lavoro, la crisi Varsila, c'è attesa per l'apertura del tavolo nazionale di crisi previsto per domani pomeriggio con la presenza dei vertici del gruppo finlandese. La battaglia per la difesa dello stabilimento triestino, secondo l'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen, rientra in una visione di filiera strategica e deve essere portata da uno Stato che difende la propria dignità e non si riduce a un ruolo di vassallo. Dalla rappresentante della giunta regionale è stato rimarcato un rischio insito nella stagione del PNRR, che cioè multinazionali vogliano attingere alle ingenti risorse disponibili nel piano e sfruttarle per pochi anni per poi congedarsi dal territorio. Sull'argomento è intervenuto anche il deputato della Lega, Massimiliano Panizzut, chiedendo di rallentare la ratifica dell'adesione della Finlandia alla NATO da parte del Parlamento italiano in attesa degli sviluppi sulla crisi Varsila. Secondo la presidente del gruppo PD alla Camera, Deborah Serracchiani, invece, la proposta di salvare la Varsila di Trieste attraverso una qualche forma di intervento dello Stato merita attenzione da parte delle istituzioni. E intanto a Trieste prosegue il presidio dei lavoratori e dei sindacati davanti ai cancelli della Varsila. Abbiamo chiesto le ultime novità sul fronte sindacale a Fabio Canisichet della FIMCISL. La novità più importante è che tutta la gente è sempre più convinta dell'importanza della lotta. Impiegati, operai, diretti e esterni sono tutti sulla stessa linea. La novità invece istituzionale è che c'è l'incontro di domani a Roma, l'incontro col Mise, e là vedremo se qualcuno scopre le sue carte. Cosa vi aspettate dall'incontro di domani? La gente è molto sfiduciata dall'azienda, da Varsila Italia, quindi non si aspetta grandissime cose. Noi però siamo degli inguaribili ottimisti, riteniamo che ci sia la possibilità, se c'è la volontà da parte dell'azienda, di trovare delle soluzioni, quindi non molliamo. Fra le soluzioni proposte, cosa pensate della proposta di nazionalizzazione che è stata avanzata dal segretario generale della Confederazione Europea dei Sindacati, Luca Visentini? Noi riteniamo, non da oggi ma da tempo, che la buona industria si fa attraverso una sinergia tra pubblico e privato. Quindi il privato, a nostro giudizio, deve mettersi un po' al servizio, ma ottenere dallo Stato tutte le facilitazioni, in particolar modo in situazioni come questa. È inutile dare i soldi ai finlandesi quando magari dei buoni imprenditori italiani, magari anche partecipati dallo Stato, possono fare scelte che convincono e che riescono a rivitalizzare sia le persone sia la struttura. Ludovico Fontana, TGR Friuli Venezia Giulia. E il tema Varsila è stato affrontato anche durante il congresso regionale della UIL, che a Tricesimo ha riconfermato il proprio vertice. Dall'11° congresso regionale della UIL, la riconferma di Matteo Zorna segretario 10 mesi dopo la sua prima elezione, ma anche la richiesta alla politica di impegnarsi nella risoluzione della crisi Varsila. 451 esuberi su 973 lavoratori è un orizzonte di chiusura totale. Matteo Zorna, segretario regionale UIL. È evidente che serve un ragionamento europeo, servono pressioni politiche sulla Finlandia, ma anche una visione di sviluppo sociale ed economico dell'Europa diversa e magari un intervento legislativo sulle delocalizzazioni che tuteli veramente le comunità del territorio. Bisogna salvare la fabbrica non soltanto per l'emergenza sociale dei lavoratori dell'indotto, ma anche per la tutela degli interessi economici del paese. Lo dice Luca Visentini, segretario generale della Confederazione Europea dei Sindacati, che guarda la nazionalizzazione dell'impianto con i soldi del PNRR. Come vuole fare la Finlandia, che impegnerà, sottolinea Visentini, 160 milioni di euro per un nuovo impianto nel paese scandinavo. A livello nazionale, la caduta del governo ha cancellato dall'agenda gli incontri su temi questioni come il potere d'acquisto, i salari, il lavoro precario e le pensioni. Ivana Veronese, segreteria confederale UIL. Siamo veramente preoccupati perché i problemi delle persone di tutti i giorni, della vita di tutti i giorni, del lavoro e appunto del reddito, con gli aumenti che ci sono su energia, su beni di consumo, sono temi, come dire, importantissimi per noi e si rischia veramente di non dare risposte. Le risposte invece noi diciamo vanno date adesso, noi non possiamo aspettare un nuovo governo per dare risposte. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Contagi da coronavirus ancora in calo in regione, sono 281 quelli registrati ieri contro i 369 di 7 giorni fa. L'incidenza scende a 1.009 casi per 100.000 abitanti in una settimana. Ieri sono stati analizzati 1.847 tamponi con un tasso di positività del 15,2%. Ci sono 4 persone in terapia intensiva, 3 meno in 24 ore, mentre sono 304 i pazienti positivi nei reparti ordinari, con un aumento di 8 unità. Registrati altri 3 decessi. La pagina politica comincia oggi in Consiglio regionale la discussione del rendiconto generale per il 2021 e della manovra estiva di bilancio. L'Assemblea si riunirà oggi dalle 10 alle ore 14. I lavori proseguiranno fino a giovedì, prima della chiusura estiva. Con gli ultimi emendamenti della Giunta, il valore dell'assestamento è salito a 792 milioni di euro. E il PD ieri ha illustrato l'ottantina di emendamenti che ha presentato alla manovra estiva, proponendo maggiori risorse soprattutto per ambiente, adeguamenti antisismici degli edifici scolastici ed enti locali. L'assessore regionale ai sistemi informativi Sebastiano Callari ha chiesto con urgenza un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico e al Dipartimento per la Trasformazione Digitale per fare chiarezza sui tempi di posa della fibra ottica da parte di Open Fiber. Callari ha fatto notare come ormai sia chiaro che l'azienda che si deve occupare del posizionamento della fibra ottica a livello nazionale e dei relativi cantieri non riuscirà a rispettare i tempi previsti, con il rischio che quando l'Unione Europea chiederà il rendiconto delle opere svolte, l'Italia e quindi le regioni si potrebbero trovare a dover restituire i fondi ottenuti. Si riunisce oggi alle 14 il Consiglio Comunale di Trieste che voterà sulla variazione di assestamento del bilancio di previsione. Il calendario, in calendario anche le nomine del Garante Comunale dei Diritti dei Detenuti e di 15 componenti della Commissione Pari Opportunità, ma anche un contributo straordinario alla Pallamano Trieste. Saranno inoltre discusse diverse mozioni su vari argomenti, dall'emergenza idrica alla proposta di installazione a Trieste di una statua dedicata a Margherita Hack. E a Trieste slitta la riapertura anche parziale della Galleria di Montebello. I lavori di ristrutturazione procedono tra le difficoltà, chiusura al traffico fino a fine ottobre. Ma ci sono anche altre grandi opere, ancora senza soluzioni. Almeno fino al 31 ottobre, tanto dureranno i lavori nella Galleria di Piazza Foraggi a Trieste, chiusa da metà maggio. Un problema di percolazioni di acqua rallenta il cantiere, serve una soluzione nuova per impermeabilizzare la galleria. I tecnici pensano a lastre grecate per raccogliere le acque e convogliarle in fognatura. Raniero Brosolo, direttore dei lavori. Non è identificabile una data certa di ultimazione di lavori, è necessario che l'appaltatore produca un documento programmatico, un programma lavori di dettaglio che consenta alla direzione lavori, alla stazione appaltante, di comprendere esattamente quali risorse verranno messe in campo. Ancora disagi per i cittadini dunque, soprattutto in vista della ripresa delle scuole. Un altro ostacolo ai lavori è il sequestro dell'area della Calcestruzzi Trieste di Via Herrera, che la ditta appaltatrice SAC utilizzava. La Galleria Foraggi non è l'unico grande cantiere di cui si parla in questi anni in città. Tra gli altri, l'ex piscina terapeutica acquamarina crollata nel 2019, che attende di essere demolita e ricostruita. La Giunta ha approvato il progetto di fattibilità per le demolizioni. Riguardo l'avvio dei lavori, il Comune sta valutando proposte di società interessate a una finanza a progetto. Sulle rive, Palazzo Carciotti, chiuso e abbandonato, è nel piano di alienazioni da tempo. Dovrebbe essere venduto e riqualificato. Il Comune ha avuto diversi incontri con venditori, anche stranieri, in questi mesi. Chiuso per lavori è anche il Porto Vecchio. È in corso il cantiere da oltre 9 milioni di euro che riguarda viabilità e infrastrutturazione. Al momento si trova davanti al magazzino 26 e proseguirà verso il centro della città. L'orizzonte è settembre 2023. Per ora qui siamo in tempo sulle scadenze previste dai finanziamenti, afferma l'assessore ai lavori pubblici del comune Elisa Lodi. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. E sempre a proposito di opere pubbliche, è stato presentato il piano dei dragaggi per Porto Nogaro, un intervento volto a rimuovere l'attuale limitazione di 5 metri e mezzo sotto il livello del mare e riportare il pescaggio minimo a 6,2 metri. Il canale a mare esterno alle dighe di Porto Buso dovrebbe essere esteso fino a 35 metri di larghezza e 7 metri e mezzo di profondità. Le operazioni a San Giorgio, per un importo complessivo di 3 milioni e mezzo di euro, partiranno il prossimo novembre e dureranno per circa 6 mesi. A Udine cominciano i primi traslochi dagli alloggi ATER del quartiere di San Domenico, dove sta per partire il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana previsto da Comune e ATER. I primi due lotti saranno finanziati con 22 milioni e 700 mila euro del PNRR. Qualcuno ha già ricevuto gli scatoloni per incominciare ad organizzare il trasloco e questa settimana due famiglie si trasferiranno nella casa in cui vivranno fino al 2023, termine imposto agli interventi finanziati con il PNRR. Sono 65 i nuclei familiari da trasferire, per 36 famiglie è stata già individuata la sistemazione nei quartieri vicini, altri 23 sono ancora in fase di colloquio e restano 6 i nuclei ancora senza una destinazione adatta. Una situazione necessaria, ci racconta il signor Nino, perché l'abitazione in cui vive con la moglie, costretta dall'ictus a stare a letto, è in stato di degrado totale e la casa individuata per loro non è adatta. In gennaio l'ATER e il comune hanno creato un centro di ascolto per capire le esigenze dei residenti di San Domenico. Il presidente di ATER Udine, Giorgio Michelutti. ATER ha già fatto un intervento di spostamento di questo tipo anni fa, riuscito benissimo a Palazzolo, Polesan, nel borgo Polesan, e quindi c'è una certa esperienza sul campo a gestire queste problematiche, che sono problematiche, perché trasferire nuclei con persone, possiamo dire, disagiate, ma soprattutto di una certa età, crea evidentemente per tutti un disagio. Il progetto per i due dei quattro lotti previsti dallo studio di fattibilità, che porta il termine 2030 e che prevede la riqualificazione dell'intero quartiere, è ora al vaglio della commissione competente, l'assessore alla pianificazione territoriale Giulia Manzan. Questi edifici, ricordiamo che sono edifici a fine ciclovita, sono molto vetusti, quindi necessitano di un adeguamento sismico, un efficientamento energetico, non sono accessibili, quindi anche dal punto di vista delle barriere architettoniche è importante rendersi conto che saranno accessibili. Le nuove abitazioni saranno più accessibili, più comode, più belle, ma lasciare la casa che custodisce una vita di ricordi non è facile. Io ci sono dentro da quando che mi hanno consegnato le chiavi della casa, perciò ne ho dei ricordi, molti. Udine, Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. La pagina della cultura va allo scrittore Marco Balzano, la terza edizione del premio letterario Friuli Venezia Giulia, il racconto dei luoghi e del tempo, istituito dalla regione con Fondazione Pordenone Legge. L'annuncio è stato dato a Trieste dalla giuria. Balzano riceverà il riconoscimento il 17 settembre in occasione della 23esima edizione di Pordenone Legge. Torna all'Aquileia Film Festival, cinema, arte e archeologia nell'antica città romana fino al 2 agosto. Sul palcoscenico naturale di Piazza Capitolo. Stasera alle 21 l'inaugurazione con un omaggio a Pasolini e con la proiezione del film Medea, poi da domani spazio alle serate dell'archeologia e alle produzioni realizzate in regione come il docufilm sui Longobardi dell'associazione Invicti Lupi. Sentiamo Roberto Corciulo, presidente della Fondazione Aquileia, che organizza il festival. Sono due temi centrali, l'acqua è un tema che credo in questi giorni stiamo vivendo in modo molto molto sentito, crisi climatica, quello che sta cambiando, risorsa fondamentale per che diciamo, come dire, ha visto combattere e probabilmente nel futuro vedrà ancora combattere le civiltà. Dall'altra parte abbiamo visto invece un patrimonio culturale che è andato a rischio durante i conflitti bellici e quindi anche questo è un altro tema molto molto importante, tenendo conto che appunto Aquileia è un sito UNESCO, in questo caso andiamo a rinnovare l'impegno di diffondere e di condividere la bellezza e la consapevolezza del valore del nostro patrimonio. Quindi due temi molto attuali. E ci sarà spazio poi a produzioni delle Friuli Venezia Giulia, anche il docufilm su Alboino e Romance. E chiuderà appunto la rassegna del festival il 2 di agosto, questo docufilm che è stato pluripremiato e che vede appunto l'arrivo del popolo longobardo in Italia con Re Alboino, la nascita del villaggio di Romance, che è diventato un importante presidio. Quando un docufilm su Aquileia? Ci stiamo lavorando, diciamo che in questo momento abbiamo tante priorità. Questa sicuramente è uno dei temi di cui stiamo discutendo, ma abbiamo veramente tante cose da fare, perché comunque Aquileia è un cantiere aperto con tante attività, tante iniziative, ma sicuramente vedremo di darci da fare per usare un docufilm anche per Aquileia, che è sicuramente importante. Ludovico Fontana, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Teatro Comunale di Monfalcone ha presentato la nuova stagione che partirà il 21 ottobre nel segno della musica sinfonica con un concerto della FVG Orchestra. Nel periodo natalizio verrà ospitato il concerto In musica e parole di Red Canzian, mentre fra gli appuntamenti di Controcanto, la rassegna dedicata alla musica contemporanea e ai diversi generi, spicca venerdì 4 novembre Pig Band dal Porcile all'Orgia. Omaggio a Pierpaolo Pasolini nel centenario della nascita. A caratterizzare il cartellone di prosa il ritorno di Yuri Ferrini il 12 e 13 dicembre con la regia di Sogno di una notte di mezz'estate di William Shakespeare, fra i classici anche Tradimenti di Harold Pinter in scena a gennaio. Al via Pordenone la 18ª edizione di FMK, il Festival Internazionale di Cortometraggi promosso da Cinema Zero. Ospite principale della prima giornata la regista triestina Laura Samani, fresca vincitrice del Davide di Donatello come migliore regista esordiente per il suo film Piccolo Corpo. Alle 16 terrà un incontro nella Mediateca di Palazzo Badini in cui racconterà il suo percorso artistico e professionale e presenterà il suo corto d'esordio La Santa che Dorme. Seguiranno altri incontri, proiezioni, laboratori e DJ set fino a giovedì. Siamo allo sport, calcio, due reti in 60 secondi all'89esimo di Samardžić e Success hanno permesso all'Udinese di superare per 2-1 i ciprioti del Paphos nell'ultima amichevole disputata a Lienz in Austria. La formazione di Sottil ha disputato gran parte del match con le riserve, andando sotto con la rete alla 19esimo di Jairo e rischiando ripetutamente di subire il raddoppio. Nell'ultima mezz'ora il tecnico ha inserito i titolari che hanno ribaltato il risultato. Terminato il ritiro austriaco, venerdì sera al Friuli è in programma l'amichevole di lusso contro il Chelsea. La Triestina ha ufficializzato l'arrivo in prestito per una stagione dall'Inter del difensore centrale Edoardo Sottini, compirà 20 anni ad agosto, è alto 1,91 m ed è un mancino adattabile anche come centrale di destra. Sottini, dopo aver mosso i primi passi nella Cremonese, ha compiuto tutta la trafila delle giovanili dell'Inter e la scorsa stagione è stato protagonista in Lega Pro con la Pistoiese, collezionando 33 presenze e 4 reti. Tennis femminile, entrano nel vivo a Cordenons gli internazionali del Friuli Venezia Giulia, torneo dotato di un montepremi di $60,000. Oggi si completeranno gli incontri del primo turno a partire dalle 10:30. Tra i match più interessanti, il debutto di Pan Udvardi, l'ungherese testa di serie numero 1, che se la vedrà con la 17enne italiana Federica Urgesi. In campo anche le altre 9 italiane entrate nel tabellone principale. Alle 7:46 spazio alla nostra rassegna stampa con il Piccolo di Trieste che in prima pagina apre con una foto del Carso bruciato e il titolo Ricrescita lenta. La stima degli esperti è che ci vorranno dai 15 ai 25 anni per il ripristino dell'ambiente distrutto dagli incendi. È iniziata la conta dei danni. Titolo principale del Piccolo nell'edizione triestina viene riservato al cantiere della Galleria di Montebello che rimarrà chiusa fino al 31 ottobre. Il sindaco di piazza spiega spandimenti pesanti da 100 anni. Zero interventi, opposizioni all'attacco. Argomento che apre anche le cronache cittadine. Poi, sempre in prima pagina, la crisi Wärtsilä con la denuncia dei lavoratori che dicono così l'azienda ha svuotato la nostra fabbrica in gran segreto. Da fine giugno denunciano le RSU 5-6 tir al giorno hanno iniziato a spostare materiali. C'è anche la cronaca in primo piano sul Piccolo di Trieste con un incidente accaduto in un cantiere edile in via San Pasquale, dove un operaio di 37 anni è precipitato per quasi 10 metri dal ponteggio procurandosi gravi fratture. E infine l'annuncio che riguarda lo sport e il ciclismo, in particolare la volata finale del Giro d'Italia in Piazza Unità, il ritorno dopo 8 anni nel 2023. L'ultima tappa partirà da Buia e il giorno prima ci sarà la cronoscalata dell'Ussari. Caso Belmonte archiviato, titola il Messaggero Veneto. Il dirigente di polizia della questura di Udine finì ai domiciliari lo scorso febbraio per un'ipotesi di prostituzione minorile. In realtà si era trattato di uno scambio di persona. In cronaca locale si parla di due incidenti in montagna. Uno è il mortale avvenuto sul Montasio. La vittima è il tolmezzino Walter Tedesco, che ha perso il controllo della propria e-bike con cui percorreva un trail ed è precipitato per 30 metri. L'altro incidente è avvenuto in Trentino, ha coinvolto un 35enne di Pulfero ferito alla schiena mentre faceva canyoning. Poi la denuncia di una ragazza che sarebbe stata aggredita e violentata in un locale a Lignano. Infine anche qui il bilancio dei roghi che hanno devastato i boschi, ci vorranno almeno 20 anni per il recupero. Sul Gazzettino del Friuli, il vaiolo delle scimmie, 4 casi registrati, nessuno con conseguenze gravi. Quindi le opere scelte dalla regione per recuperare acqua e combattere la siccità e finanziamenti arrivano dalla Protezione Civile Nazionale. Gli alloggi comunali a tempo per chi è in difficoltà, si tratta dell'ex CISM di via Urbanis e di una parte dell'ex caserma dei Vigili del Fuoco di via Cusignacco, saranno riqualificati e destinati a fasce deboli e senza tetto. Infine l'Udinese in amichevole Allianz ritrova la vittoria 2-1 contro i ciprioti del Pafos. L'edizione di Gorizia e Monfalcone del Piccolo apre la prima pagina con l'inchiesta sulla centrale A2A di Monfalcone. Cade il reato di disastro ambientale, si legge nel titolo. Avviso di conclusione indagini notificato all'ex direttore Scottoni e all'azienda. Il caso, ricorda il Piccolo, nacque dall'esposto dossier di 500 pagine risalente al 2013 e firmato Cisint. E 5 anni fa ci fu l'ispezione nello stabilimento lunga un giorno. Anche il Piccolo riporta in prima pagina il caso Belmonte, archiviato dal GIP, fu scambio di persona e poi le conseguenze della siccità, quintali di pesce salvati nel vipacco, nel letto in secca. Ad aprire le cronache di Gorizia è il tema demografico, cresciuta in città la fascia under 35, ma poi i giovani se ne vanno. L'incremento più evidente in 3 anni si legge sul Piccolo nella fascia 0-25, ma tra i giovani goriziani resta il nodo della diaspora post-laurea. Il vaiolo delle scimmie, titolo d'apertura anche del Gazzettino di Pordenone, la fotonotizia a centropagina raffigura uno dei 2 Canadair che ieri erano in azione sul Monte Raut, dove si è sviluppato l'ennesimo incendio. Continua l'emergenza siccità, San Vito al Tagliamento, la regione autorizza l'uso di autobotti per l'acqua. In taglio basso il piano per cambiare il volto al quartiere del Bronx a Pordenone. La svolta dovrebbe iniziare a materializzarsi dalla prima settimana di agosto. Prima si metterà mano alla viabilità, poi alla riconversione delle aree a commerciali e non. Il Messaggero, edizione di Pordenone, anche qui la fotonotizia è sull'incendio del Monte Raut. Il capocronaca è sui fondi PNRR, rischio opere incompiute se non cambia il regolamento. In ballo ci sono 40 milioni già ottenuti sulla carta, altri 10 dovrebbero arrivare. Tra gli interventi la riqualificazione dell'ex fiera, le scuole e i progetti legati al bando Pinqua. Poi si parla dell'omicidio di Alessandro Coltro, l'artigiano che fu ucciso nel 2018 da un cittadino rumeno per una questione di soldi. È definitiva la condanna a 30 anni. Infine il comune del capoluogo pensa a una deroga per consentire i lavori durante le ore notturne nei cantieri dopo che un operaio ha avuto un malore a causa del forte caldo di questi giorni. Alle 7.52 continuiamo con gli appuntamenti. Noemi in concerto gratuito stasera a Lignano Sabbia d'Oro per il festival. La cantante romana si esibirà dalle 21 alla Beach Arena. In scaletta i suoi successi, tra cui l'ultimo singolo Hula Hoop, realizzato con il cantautore romano Carl Brave. Un grande nome del progressive rock stasera a Udine, Steve Hackett, si esibirà alle 21.30 al Castello per la rassegna di Udine Estate. Il chitarrista, cantante e compositore britannico ripercorrerà il suo percorso musicale dagli esordi con i Genesis, con cui ha inciso 8 album dal 71 al 77, fino alla sua ultra quarantennale carriera da solista. Una nuova prima assoluta al Mittelfest, oggi alle 19.30 debutta nella chiesa di San Francesco La Sapurdir, un itinerario di note tra Italia e Slovenia. Alle 22 al Teatro Ristori torna a Cividale la formazione greca Harris Lambrakis Quartet. Il vortice di ballo ed acrobazie dei Cataclò arriva a Pordenone. La compagnia italiana di Athletic Dance Theatre si esibirà alle 21 in piazzetta Pescheria per la stagione estiva del Teatro Verdi. In programma Back to Dance, spettacolo che racconta il ritorno in scena dei danzatori dopo aver vissuto l'esperienza del lockdown e delle chiusure. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano Vue o Fevelindì parlerà del nuovo servizio di sportello in lingua friulana inaugurato ad Aquileia. A seguire dalle 11.20 a Tutto Bit. In questa puntata si parlerà della transizione verde e digitale a favore della manifattura avanzata. I programmi regionali torneranno poi alle 14. Sono le 7.54, si chiude questa prima edizione del giornale radio regionale redatta e condotta da Lorenzo Gerlinzone e Andrea Covre. È andata in onda grazie alla collaborazione tecnica di Paolo Cassano, Viola Romanese e Andrea Fontanot. In redazione ha collaborato Emanuele Bussani. Prossimo appuntamento con l'informazione radiofonica regionale alle 11 con il nostro flash, poi alle 12.30 con una nuova edizione del giornale radio. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.